Il punto di Stefano Folli. Da Enrico Letta, cioè dal Presidente del Consiglio, ci si aspetta che parli poco e agisca molto, e le cose da fare non mancano nel nostro Paese, come purtroppo sappiamo. Perciò stupiscono un po' le frasi pronunciate ieri: la stagione di Berlusconi è finita, il ventennio è chiuso. Sono giudizi che il nostro Premier farebbe bene a lasciare ai commentatori per concentrarsi invece sull'azione di governo. Non che non sia vero, ma in politica non sempre è opportuno dire tutto, specie quando si hanno rilevanti responsabilità. L'altro giorno, con il voto di fiducia, Letta ha ottenuto un grande successo. Ma adesso a che serve infierire sullo sconfitto Berlusconi? Si finisce per mettere in difficoltà lo stesso Alfano, che invece ha bisogno di tempo per costruire il centrodestra moderato ed europeo, che è la migliore garanzia di stabilità e di durata per il governo. E poi, quando si vince, può essere pericoloso voler stravincere.